tre spot in un treno flash. Vedo occhi luci intorno a me. Le cuori ma a me allora sono nei dors. Sono la chiave per l'apertura di un altro mondo. Treno flash come in tre spot in trash. Come in tre spot in trash. What the fucking ding-dong, schiaffeggio rapper, faccio feste con le voci matte. Dentro a una carta vedo il signore delle maschere che mi guardano adesso. Dentro molte identità razionali, loro sono gli specchi in cui mi specchio. Specchierei meglio se avessi due o tre rari e Ferrari. Tre spot in un treno flash. Vedo occhi luce, occhi luce intorno a me. Le cuori ma a me allora sono nei dors. Sono la chiave per l'apertura di un altro mondo. Treno flash come in tre spot in trash. Come in tre spot in trash.